tutti nella vita siamo fragili. Tutti. Tutti abbiamo la nostra fragilità. Tutti. Chi più che meno, ma qualcuno è forte e qualcuno non è forte. Mi sono sposata, ho avuto 8-9 figli e sono tutti bravi, sono tutti, lavorano tutti e ne ringrazio. Proprio sono contenta. E io sono finita qui perché nessuno ha tempo di guardarmi. E sono